Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Con questa puntata inizia la nuova stagione di Essere e Avere, festeggiamo la numero 11, pronti a raccontarvi come sempre tutto quello che c'è da sapere sui consumi e le nuove tendenze, dai fenomeni emergenti della moda, del design, del retail, passando per pubblicità, marketing e social media, con le voci e le storie dei protagonisti. Per questa prima puntata iniziamo da un indicatore del mondo dei consumi che è ormai un'abitudine, un'occasione di riflessione importante sulle nuove abitudini di consumo e di vita. Si tratta del rapporto consumi-COP. Ecco come quest'anno fotografa i cambiamenti degli italiani attraverso il carrello della spesa. Mi manca un chilo di pace integrale e due etti di comprensione. Carrello della spesa sempre più green e light, con meno carne e cereali ma più pesce, frutta e verdura, quello dei nuovi italiani, fotografati dal tradizionale rapporto sui consumi firmato Coop, giunto quest'anno alla sua 35esima edizione. La spesa alimentare è al palo. Complici le abitudini antispreco, si compra meno cibo, sempre più light. Gli italiani sono i più magri d'Europa e più global, più 8% per i prodotti etnici. Di qui la riscoperta di ingredienti antichi e dei cosiddetti superfood. Lo zenzero, la quinoa, la curcuma, le bacche di goji sono tra i più cercati in rete e segnano incrementi nelle vendite a doppia e tripla cifra. Più 141% il giro d'affari dello zenzero, più 93% la curcuma, più 92% la quinoa, più 34% i semi. Oltre all'etnico, cresce anche il lusso e il pronto, più 21% per il bio, ormai di massa. Poi ci sono i cosiddetti prodotti free from, più 20% per gli alimenti senza glutine e quelli con. Pillole, integratori, beveroni generano un mercato che fa primeggiare l'Italia in Europa, più 7,7% per un giro d'affari di 2,5 miliardi di euro. Un carrello che esprime la voglia di cambiamento di paese ingessato, dove la ripresa fatica a decollare e dove siamo sempre più vecchi e più soli, più poveri e diseguali, ma anche più tecnologici. Al polso di 1 su 10, secondi solo agli americani, c'è un dispositivo indossabile come lo smartwatch. Siamo quelli che guardano più spesso il telefonino al mondo e i più entusiasti della sharing economy. Proprio grazie alla rete e all'economia della condivisione, crescono i consumi gratuiti, telefonia, musica, informazione, vacanze, mobilità, mercato dell'usato, che permettono a una famiglia di risparmiare fino a 1.400 euro ogni anno. Tra i primati poco invidiabili, il consumo di farmaci per ansia e sonno, del 10% più alto rispetto alla media europea, e quello di cocaina, secondi in Europa dopo gli spagnoli, mentre poker online, lotto e macchinette continuano a registrare il segno più. Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei è il claim di Essere Avere. Il carrello della spesa intercetta trend e istanze di cambiamento, ci dice Albino Russo, che è il direttore dell'ufficio studi di Coop. Il carrello della spesa è il luogo della sperimentazione di un paese che ha voglia di cambiamento e che proprio a partire dal cibo sperimenta le novità. Quello che troviamo oggi nel carrello della spesa è una nuova attenzione alla salute e alla naturalità dei prodotti, ma soprattutto una eccezionale voglia di mischiare la tradizione della dieta mediterranea con stimoli che vengono da altri luoghi. Più 8% la crescita dei cibi etnici, soprattutto è boom dei cosiddetti superfoods, cibi che spesso appartengono a tradizioni alimentari lontane, ingredienti che aiutano a vivere meglio. E così, dopo averli cercati sul web, questi superfood diventano acquisti nel carrello della spesa. Nomi anche strani, alcuni di questi sono diventati di massa, parliamo di quinoa, di zenzero, di curcuma, di azuki, di kefir, di amaranto e di molti altri prodotti che gli italiani

Questa, diciamo, polarizzazione delle condizioni per età è un po' particolare, perché troviamo fasce di povertà estrema in anziani non protetti, ma è anche vero che c'è una popolazione, diciamo, over 60, over 65, che invece ha buoni redditi e buone condizioni, mentre i ragazzi fino a 30-35 anni a volte sono in grandi difficoltà, sono bravissimi spesso ad arrangiarsi, a trovare soluzioni, ma io penso che debba essere fatta una politica per le famiglie giovani in questo paese, che è la vera priorità di questo paese. On a revolution, well, you know. È la celebre canzone dei Beatles a ispirare la mostra che riporta in primo piano la 60s mania. Ne parliamo tra pochissimo nel Focus sui Trend. Prima andremo a caccia con lo smartphone in mano. Restate con noi. All right! Roma Napoli, in auto con un'amica, io, lei e il sistema digital radio. Accendiamo la radio? Hai detto radio? Te la faccio ascoltare in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare i programmi che ami di più con il suono perfetto. Grazie alla digital radio. Ce l'ho anche a casa. Tu no? Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in digital radio. Essere e avere. Ma guardi, signor Rovazio, in mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito l'andare a comandare. Mi spiace. Ho un problema nella testa, funziona a metà, ogni tanto parte un suono che fa. Rovazzi, ma non solo, tra i tormentoni di quest'estate ormai agli sgoccioli il fenomeno Pokémon Go, il gioco per smartphone che ha fatto impazzire milioni di utenti. Secondo alcuni analisti però già in declino. Nelle ultime settimane Bloomberg ha pubblicato un'indagine secondo cui l'app che sfrutta la realtà aumentata e la geolocalizzazione avrebbe perso nell'ultimo mese 15 milioni di utenti. E in Francia il governo ha addirittura chiesto alla società editrice di togliere le scuole dalle mappe del gioco per i timori legati alla sicurezza. Sulla scia della Pokémon mania noi abbiamo scoperto Gaia Smart, dove Gaia sta per giochi e attività interattive all'aperto. Un'app tutta italiana che smartphone in mano permette di visitare le città giocando, grazie a percorsi tematici e racconti interattivi. Una sorta di caccia al tesoro con obiettivi da raggiungere, giochi, quiz e indovinelli, un modo per scoprire le città fuori dalle solite rotte turistiche. Ce la siamo fatta raccontare da uno dei tre fondatori di Promuoviti, la startup che l'ha creata, Caterina Pavan. Gaia Smart è un'applicazione e un catalogo insieme di itinerari turistici interattivi in forma di caccia al tesoro. Sono tutti gratuiti, sia l'app che gli itinerari. È sufficiente scaricare l'applicazione sul proprio smartphone, scegliere l'itinerario che si vuole svolgere a seconda della città in cui ci si trova e attivarlo. Si gioca proprio con le vie, con i monumenti, con le piazze. Per chi è stata pensata? È pensata per chi ha voglia di conoscere o la propria città o una città in cui si trova per turismo oppure anche per lavoro e magari si ritrova due ore libere nelle quali non sa cosa fare. È pensata per qualunque età, perché ci sono giochi appunto che coinvolgono anche magari i bambini, se ci sono famiglie a spasso, ma allo stesso tempo può interessare anche a chi ha più gusto per il turismo, per la cultura, per le storie appunto del posto in cui si trova. Ricordiamo quali città attualmente coprite e diamo qualche esempio degli itinerari proposti. La prima città che abbiamo coperto è Torino, e ha sei itinerari che vanno dal Torino al gusto di cioccolata, dalla Torino storica più appunto nel centro storico con un viaggio nel tempo e nelle varie tipologie architettoniche che ci sono nel quadrilatero. C'è anche un'esperienza in quartieri un po' meno turistici come San Salvario o la Crocetta. Poi abbiamo Milano con tre itinerari. Due sono proprio dedicati ai bambini, c'è una storia alla ricerca di animali particolari della città, poi c'è un itinerario lungo i Navigli. Poi abbiamo Venezia, Olbia, Pinerolo, Torre Pellice e prossimamente stiamo lavorando a un itinerario 2 su Roma. Focus sui trend. Ci sono decenni che più di altri tornano ciclicamente a fare tendenza nella moda, nel design, così come nell'arte, nella comunicazione, nella musica. Nei prossimi mesi toccherà agli anni 60 e l'indizio, uno degli indizi più forti, è la mostra You Say You Want a Revolution, dal verso della celebre canzone dei Beatles al Victoria and Albert Museum di Londra. Inaugurata ieri, resterà aperta fino al 26 febbraio. Partiamo da qui allora per individuare gli altri indizi di questa nuova 60s mania. Lo facciamo con Valentina Ventrelli di Future Concept Lab. Ciao Valentina, ben trovata. Buonasera a tutti. Allora, se sei d'accordo, partirei proprio dalla mostra e dal fenomeno dei corsi e ricorsi sui decenni di tendenza. Una mostra importante che parte proprio dalla scelta del nome della mostra, che è la prima strofa di una celebre canzone, ma soprattutto di un album che è stato veramente una sorta di manifesto per questa generazione. Ed è una mostra importante perché non è semplicemente una retrospettiva di un decennio o di un periodo storico, ma è davvero una mostra che racconta forse i 5 anni più significativi della nostra storia recente dal punto di vista della rivoluzione culturale e della nascita di una generazione. Questo è il momento in cui i giovani proprio rifiutano il passato e danno vita a delle nuove forme culturali, estetiche, musicali mai viste prima. Ci aspettano mesi all'insegna di questa nuova rivoluzione, perché è vero, la moda si è sempre nutrita di cicli, di citazioni al passato, di ritorni, però la motivazione è un po' più profonda, cioè non solo estetica ma molto culturale. Io credo che siamo oggi in un momento storico in cui i valori che quella rivoluzione di fatto portava avanti e che sono molto presenti nella mostra, come il multiculturalismo, l'ambientalismo, la nascita della tecnologia, oggi siano temi molto molto caldi. Molto presente la moda nell'immaginario quando si citano questi anni, però una rivoluzione equivalente c'è stata anche nel design. Assolutamente, sono stati anni in cui il radical design, l'architettura radicale e di conseguenza il radical design ha davvero forse aperto a quello che è il design italiano come lo conosciamo oggi. È interessante, cito un'altra mostra dedicata proprio al radical design che quest'estate ha in qualche modo inaugurato all'interno del campus Vitra il nuovo edificio all'interno del campus, sempre degli architetti Herzog e de Meuron, che ha proprio ospitato, ha inaugurato le sue mostre temporanee con una mostra dedicata al radical design, che appunto è stato un movimento davvero importante che ancora una volta portava avanti dei valori che rompevano col passato e aprivano ad una sperimentazione tra arte e estetica molto importante, per cui la mostra ha ospitato opere di Gaetano Pesce, di Mendini, di Archizum. Oggi di quegli anni che cosa ritroviamo come citazioni o come prodotti nella nostra quotidianità, nelle nostre case? Ah, tantissimo, anche perché proprio sull'onda di questo desiderio di un certo tipo di modernariato, di un certo tipo di estetica, non solo ci sono tantissime aziende che citano quegli anni, ma moltissimi stanno rieditando pezzi storici, stanno riportando in vita oggetti che hanno davvero caratterizzato quegli anni e che oggi tornano ad essere presenze importanti. Basti pensare al radiocubo di Brion Vega, piuttosto che appunto riedizioni di pezzi storici di Castiglioni. Un tipo di estetica, mi verrebbe da dire, anche molto legata al tema della decorazione di interni. Quelli erano gli anni in cui, oltre al design e agli oggetti, c'era un nuovo modo di vivere la casa. Pensiamo alle grafiche, al colore, l'introduzione del colore, delle grafiche, delle tappezzerie all'interno della casa. Oggi torna ad essere una tendenza molto importante nel design, nel design del domestico, ma anche se pensiamo degli alberghi, dei locali pubblici. Ambientazioni e prodotti che troviamo anche in molte campagne. Valentina, la comunicazione subisce il fascino di questo revival anni 60 e 70? La comunicazione è uno specchio perfetto per raccontare quanto gli anni 60 e 70 stiano tornando. Aziende come Gucci, Tod's, Michael Kors, per cui aziende di un certo calibro, hanno proposto non solo prodotti, ma anche ambientazioni, anche situazioni in cui quel tipo di estetica, alcune icone del passato e di quel passato tornano prepotentemente. Mi viene in mente anche la campagna Alitalia, di cui si è parlato parecchio. Si è parlato parecchio anche perché Alitalia, diciamo che quest'estate, oltre alla campagna, ha proposto anche proprio un nuovo look della compagnia. Allora, la campagna di Leo Burnett ha fatto discutere molto, ma è stata senz'altro una campagna importante perché ha riproposto un certo feeling italiano, un certo gusto italiano, dalla musica all'ambientazione. D'altronde anche tutto il tema delle divise, delle hostess e degli steward disegnati da Ettore Billotta erano una chiara citazione agli anni 60. Chiuderei inquadrandola in questa tendenza il grande ritorno della musica in vinile, una crescita che dal 2007 in poi, dopo un silenzio durato una decina d'anni, non si è più fermata. Io ho trovato i dati: nell'ultimo anno più 74% per una quota di mercato del 4% in Italia, negli Stati Uniti siamo al 9%, un fenomeno. Sono numeri straordinari se pensiamo alle nuove tecnologie, ai nuovi supporti. Proprio il lavoro fatto sul ritorno del vinile, per cui sui piatti, sui giradischi che sono tornati in maniera importante, basti pensare a Technics, che è stato un marchio mitico proprio per l'amplificazione e per la creazione proprio dei primi piatti domestici, che è ritornata e sta facendo un lavoro straordinario in cui dal punto di vista estetico la citazione è chiarissima a quegli anni. Ma dal punto di vista tecnologico e di qualità del suono siamo avanti anni luce. La cosa più interessante è capire come mettere insieme passato e futuro in maniera sempre evolutiva. Valentina Ventrelli, grazie, alla prossima. Grazie a voi, buona serata. Il consumautore. Anche in questa nuova stagione di Essere Avere a guidarci nell'analisi dei fenomeni di prodotto, di mercato e di costume, alla ricerca dei segnali di cambiamento nel marketing e nella comunicazione, c'è il nostro ospite fisso, il sociologo dei consumi Francesco Morace. Bentrovato Francesco. Bentrovata Maria Luisa e a tutti i radioascoltatori dopo questa bella estate. Allora, il tema che hai scelto per questa prima puntata? Per questa prima puntata mi sembrava doveroso un tributo non tanto e non solo al terremoto, ma a un luogo che è Amatrice, perché attraverso il terremoto 9 italiani su 10 hanno scoperto che l'amatriciana arriva da lì, perché questa era una cosa non sufficientemente conosciuta. E questo spiega anche come mai per la prima volta sono arrivate troupe dal Giappone, dagli Stati Uniti, proprio perché questo luogo è in realtà molto attrattivo per merito del consumo e quindi dei consumatori. Quindi il consumo come ponte, come strumento di dialogo globale, citiamo su tutti i contenuti virali che sono girati in rete gli auguri della famiglia Kennedy, coraggio Amatrice, puoi farcela. Sì, è la dimostrazione che troppo spesso noi demonizziamo il consumo, ma in realtà è attraverso il consumo che possiamo anche avere dei tributi di riconoscenza. Poi l'Italia ha 100 Amatrice, no? Pensiamo a Colonnata per il lardo, a Felino per il salame, quindi dovremmo veramente approfondire molto più le specificità che noi abbiamo nel nostro territorio e capire che sono una cassa di risonanza straordinaria nel mondo. È un modello di attivazione, di partecipazione virtuoso che appunto può insegnare molto in diversi ambiti, in diversi settori. Eh sì, e quindi anche alle aziende. Io credo che bisognerebbe insegnare che il loro ruolo non è solo quello, per carità, economico e di fornire servizi, fornire prodotti, ma è quello di creare questo rapporto culturale con un mondo magari fuori che non ci conosce e che può apprezzarci molto di più. Grazie a Francesco Morace, grazie a Carmelo Lauricella in regia. Essere Avere torna domenica prossima, non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.